Lo spleen tecnologico di questi australiani è fantastico, è un pezzo meraviglioso. Siamo tornati, diciamo magari che siamo tornati qui dopo la lunga pausa del GR. Si è sentito. Direi ancora Minimal Wave, ancora qui 451 frammenti sonori e altri suoni in versione unita, come ogni tanto, anzi come sempre più spesso, mi fa piacere. Sta succedendo quest'anno, va bene, tra te appunto DJ Tetro e ogni tanto Gino, ogni tanto tutti e due magari, perché no, noi facendo delle cose un po' più di compagnia. Sì, beh, andando anche a tirare fuori cose particolari, insomma. Ovviamente. Beh, naturale. Adesso a questo punto addirittura andiamo a trovare un Cubin che non era neanche adolescente, proprio bambino, tra l'altro stampato dalla Minimal Wave. Torna sempre su quelle due o tre etichette che lavorano su questo tipo di suono. Sì, che poi stavi dicendo Minimal Wave, che poi cosa c'era? La belga, come si chiama? La belga si chiama, adesso non mi ricordo, porca miseria, Alpha Matrix. Mm. Alpha Matrix Records, che è dal 2001 che stampa, che ha preso la parte belga, quindi Nizza Reb, Metroland, Front 242. Sì, perché c'è anche da dire, magari dopo faremo anche un accenno, c'è anche la famosa faccenda della Body Music, che è stata poi un proseguimento della wave belga, dell'elettronica comunque franco-belga di quel periodo. Sì, anche Industrial Dance, Metal Dance, sì, come che la chiamava, la Metal Dance fino agli SPK, le parti più estreme, sì, della faccenda. Beh, è estremo anche andare a trovare un Cubin tra gli 11 e 15 anni. 15 anni. Che i suoi si tape. È veramente eccezionale, sentite che lavoro. Berlinesi, sì, sì, direi che l'atmosfera è sempre quella, però appunto non è più Felix Cubin da bambino, ma è Scott Montate da adulto, perché è un disco che è uscito nel 2012. Questo canadese che ovviamente, facendo sta roba qui, è andato a Berlino, e ci ripropone nel suo ottavo lavoro sotto il nome di Dead Beat. Ha sempre fatto appunto già dal nome, il nome un programma, spiega, come dicevamo prima, direi. Spiega tutto, e qui riprende proprio le sonorità, dice, molto kraut, sì, devo qua dire. Ci sono già influenze kraut precise e un po' magari anche psichedeliche, per rimanere sempre nel tema di queste sonorità così metronomiche. Thank you. Pezzo che con dei sub potenti può veramente fare tanto anche. Sì. Bella martellata, bel martello che va dritto, non male. Sì, riprendeva poi le metronomie appunto degli anni 80, quella della Cold Wave. La ritmica della Cold Wave era quella, e quindi rielaborata con i mezzi di adesso. Sì, con quel suono digitale, però memore dell'analogico. Tanto riscaldato anche quanto basta. Sì, e continuando questo viaggio dentro le freddezze, le lande ghiacciate dalla cold. Andiamo in un paese dove di lande ghiacciate non ce ne sono, perché il Texas. E ci domandiamo come cavolo si è venuti in mente a questi personaggi di fare dei texani baccari, dei texani che fanno elettronica pseudo minimale, quantomeno bizzarri. Si chiamano Tense, il disco del 2007, e il suono è un beat. Una cosa anche e qua infatti molto. Infatti il brano si chiama Pulse Beat. Vabbè, più metronomica di questa. Non si poteva. Possibility. you gone down in the dark where none is welcome? Into the washer and close the lid with a bang. He felt the angry waves rush at him as though they would tear him from his seat, and great sheets of stinging spray were flung in his face. Qui è ancora un brano mitico per chi se lo ricorda. I Dark Day, No Nothing Never, il gruppo di Robin Crutchfield dai DNA, che fece questo progetto più synth, chiamiamolo, comunque New Wave, subito successivo appunto alla New Wave, giusto per rimanere negli Stati Uniti, visto che prima era in Texas, qua torniamo a New York. Sempre inizio anni 80 e anche lui è scomparso. Chissà. Ma magari se si è data una produzione, farà qualcos'altro. O magari molti si sono dati anche, sono diventati video artist. Sì, poi hanno avuto carriere diverse. Chi si è dato alla parte cinematografica. Chi fa il nonno. Chissà se ancora al mondo. Sì. Beh, comunque è possibile anche che ritornino fuori, visto che poi sono ritornati di culto. Sì, quindi... sì. Tutto è possibile, infatti. Abbiamo visto tornare fuori tutto, di tutto e di più. Tra l'altro stavo, tanto per dare un po' il sign of the time, l'anno scorso a New York, e c'era Onetrix a pochi dollari e i Divo a pochi chilometri, invece costavano tanti dollari. Quindi... forse è anche un po' indicativo, vorrà dire. Forse il fatto che, insomma, e gruppi storici, insomma, poi di fatto adesso si vendono appunto anche tra virgolette come padri di un certo suono. Se la copertina di Rolling Stones parla del nuovo disco dei Deep Purple, credo ci sia da preoccuparsi. No. E lì però c'è da preoccuparsi sul serio, perché non si parla più di suono del futuro. No, appena del suono della tomba. Appunto, quindi un altro discorso. E tra l'altro molte radio lo stanno anche pompando. Appunto. Sì, poi appunto tutte le elettromanie hanno anche questo aspetto negativo, cioè tutte, alcune elettromanie hanno questo aspetto negativo, quello che recuperano anche cose. Ma probabilmente il pubblico è invecchiato, perché anche Blow Up poi in copertina di Primal Scream, che comunque hanno 22 anni, dal primo disco 24. C'è da riflettere su questa faccia. Forse ha ragione Samuel Reynolds, sì, di non esagerare con la retro. Siamo alla retromania assoluta. Forse un po' bisogna, come dire, ricalibrare la faccenda. Però magari... noi comunque andiamo con un pezzo dell'82, così. Così appunto. Ma è come dire, ritorno al futuro. Perché poi appunto questi sono suoni che ci riportano, insomma, anche a faccende che possono dare spazio, possono essere seminali anche per domani, no? Per certi versi, no? Molto probabilmente escono più da qua che dalle chitarre. Infatti. Soprattutto quella di Deep Purple. Che andiamo a ascoltare. Non le hanno bruciate abbastanza. Hendrix non ha insegnato a bruciare abbastanza chitarre. Sì, in effetti Hendrix aveva dato il là, ma non è stato preso sul serio, purtroppo. E ce ne andiamo ad ascoltare adesso? Absolute Body Control. Belgi, 1983. Proprio 30 anni esatto. Siamo proprio all'anticipo della body music. Subito prima, infatti, i ritmi cominciano a essere quelli. I said 1, 2, 3, 4, 5, what else can we do? anticipo di tanta techno anche dentro, sì, questi ritmi brutalizzati. Le voci. Sì, anche se c'era un qualcosa che mi ricordava di Orchestral Manoeuvre in the Dark. Ma che, quella piccola che, parte synth pop, diciamo, di sottofondo, sì, che era quella molto defilata, che però poteva avere quel tipo di riferimento. Il giro di synth proprio. Sì, dopo il resto di no. Electricity, se sì, vogliamo. Esatto. Dire, esatto. I primissimi, quelli comunque che non erano male, cioè incidevano Factory comunque. Ah, no, ma infatti, insomma, altro gruppo che è degenerato verso sì, che poi è stata brevissima la faccenda, carriera, no? Enola Gay fortunatamente li ha distrutti. No, ma anche per molta di queste musiche che stiamo passando questa sera sono state molto bene. Cosa è durato? 2 o 3 anni? 2 o 3 anni, è una scena molto breve, 79-83 più o meno. Sì, sì, sì. Poi dopo tutto va a scemare nel, sì, nel tecnopop, quello più di cui dicevamo prima, cioè sì, sì, sì, più sciocco, insomma. Sì, che poi alla fine sparisce anche quello abbastanza rapidamente. Si ritorna al rock, vero? Si torna al rock, cioè con gli Smiths, dopo si ricomincia, Rem, no? Mm. Ricomincia tutta una parte che riprende in maniera più costruttiva, sicuramente. Sì, se pensiamo anche a carriere, vabbè, non c'entro niente questa sera, però può essere, insomma, indicativo di come certi anni 80 si siano trasformati. Ad esempio, gli Husker Du, che partono una band, sì, hardcore violentissima, poi, e poi diventa una band folk rock. Folk rock, no? Americana purissima, sì. Ma è un'evoluzione di tanti. Sì, il ritorno, come dire, alle radici che ha attraversato gli anni 80. Sì. Perché poi alla fine dall'84 in avanti, se uno effettivamente ci pensa, dopo cambia completamente il suono, tornano suoni vecchi rifatti in maniera moderna. Sì, che ci portano poi al grunge, a tutte quelle faccendine lì. Sì, nel frattempo poi arrivano cose come l'house, la techno, certo, e l'elettronica, che poi fa deviare tante altre cose su sentieri più magari meno conosciuti, ma forse più importanti, che poi arrivano, sì, ai nostri ad giorni. Sì, sì, sì. Arriviamo a noi, insomma, e poi ci arriva noi, di fatto. La parte più moderna della faccenda. Mm. Bene, andiamo a recuperare questi Xin. Sì. Non ne sappiamo niente neanche di questi. Un oscuro tedesco. Michael Winter. Uno dei tanti. Disco dell'80, Computer Man. Una sorta di apocalisse tascabile. Thank you. un finale pastorale quasi, sì. Un pezzo assurdo molto originale però bello, sì, dell'Ixin, Computed Man, dove si sentivano riflessi di un cold jazz, veramente nel senso vero, insomma, di jazz raffreddato, jazz, attraverso un sax stralunato, ma un pezzo sì che dava questo senso di alienazione cosmica, appunto, di abbandono quasi extraterrestre, no? Sì, con un po', ci ha messo dentro un po' di tutto, in effetti è abbastanza originale, d'altronde ci sta anche bene, sì. Perché Raglan è un altro pazzoide furioso che mette dentro i suoi dischi un po' di tutto, dalla psichedelia al folk, all'elettronica, al kraut, come sentiamo adesso. E quindi è proprio la filosofia poi della serata e del suono che andiamo a trasmettere. Ha appena fatto uscire questo nel 2012 questo secondo o terzo lavoro, The Exploded View, questo brano che ascoltiamo adesso è proprio in tema, perché ci sono tutti i sequencer tipici del kraut con un po' di metronomica e anche un po' di melodie abbastanza aliene e psichedeliche. We'll be right back. brano quasi elegiaco, eh? Molto originale, secondo me. Regrani, pur ispirandosi appunto anche a Throbbing Gristle, come era chiaro sentendo anche il brano di prima, ci mette quel qualcosa di suo che è, boh, non so, è notevole. Assolutamente, è personale, originale, ha della personalità fine. Non, c'è poco. Dice, infatti c'è poco da dire, c'è molto da ascoltare, no? Sì, quando la gente ha della personalità non c'è tanto da stare a raccontare chissà che cosa. Sì, poi questo disco si chiama The Real World, Colors of the Physical World, ha poi due brani di 20 minuti che sono psichedelia pura, proprio un viaggio cosmico stranissimo, proprio tutto da ascoltare. Ebbene, noi andiamo a trovare appunto, stavamo citando Throbbing Gristle, se non è zuppa è pan bagnato. Sì, eh? È il brano della mia buonanotte. E andiamo a concludere quindi con poi progetto parallelo, progetto, no? Progetto parallelo. E i Chris & Cosi. Chris & Cosi, che fra l'altro questo disco non esce accreditato a Chris & Cosi, ma esce Elemental 7. Creative però, Technology Institute. Sì, perché questo è la colonna sonora di un film, dove però tutti i brani sono di Chris & Cosi. E questo è il brano per eccellenza, perché ci sono dentro movenze di Detroit, il downtempo, c'è tutto, credo vada solo ascoltato. Disco tra l'altro forse ristampato da pochissimo, per anni era fuori catalogo da tantissimo tempo. Lo andiamo a ascoltare, poi dopo salutiamo, sì, sì, così ce lo godiamo a pieno. Okay. Via. Ah, questo me l'ero proprio dimenticato, ma poi ho riconosciuto il ritmo ed è proprio cosmico, assoluto, e c'è tutto qua. Qui c'è tutto. È l'84 come uscita, 82-83 come registrazioni, quindi parliamo del subito dopo Throbbing Gristle, la fine dei Throbbing Gristle e il progetto di Chris & Cosey che prende una piega che è arrivata ai giorni nostri, ne parlavamo prima. Sì, un disco tra l'altro veramente uno dei dischi del 2012. In collaborazione con Nicky Void dei Factory Floor. Un disco eccezionale, veramente una delle perle. E tra l'altro sembravano anche meno accreditati, no, nel corso degli anni. Vabbè, i Coil hanno fatto cose straordinarie. Janis Piorridge era molto stato più personaggio, è stato più comunicativo dal punto di vista, sì, della... anche se musicalmente erano loro dietro tutto. Beh, certo. Beh, Psychic TV è stato un bel progetto iniziale, poi dopo si è degenerato. Erano settimana scorsa a Bologna. Stendiamo due veli pietosi, uno e due. Ricordiamoci le cose belle. E insomma, veramente un condensato, no, di tutta la cold, del ritmo metronomico che sta per anticipare la techno detroitiana. La stessa house all'inizio, usa questo tipo di suoni, poi a velocità e a battute diverse, però... E quel senso sperimentale che è dato da questo cosmicheggiare. Ritorniamo sempre lì, non si può. Non, tutto, cioè, questo nasce, Monolite. Non l'abbiamo toccato tedesco, stasera, insomma, ma il Monolite è tedesco. È tedesco. È partito da lì il missile. Da Karlheinz Stockhausen. Da Stockhausen, insomma, e da tutti i suoi proseliti. Tutto questo, comunque, è figlio di quel gene. Poi. Uno l'ha interpretata a modo suo, certo, contaminato, certo, imbastardito, possiamo fare tutto quello che vogliamo, però oggettivamente qui c'è, sono i figli, nipoti, pronipoti, speriamo che ci siano anche i pronipoti. Esatto. Va bene. Va bene, allora chiudiamo anche questa edizione straordinaria di 451 frammenti sonori e altri suoni, ancora una volta assieme. Sì, ne faremo un'altra prossimamente. Prossimamente, poi ce ne sono un altro paio in embrione. Ah, per i DJ set, infatti, che, dove li fai? Perché vogliamo sapere a questo non punto. Non lo diremo mai. Come non lo diremo mai? Alla residence, non vuoi far sapere. Girremo con un bulbo oculare in testa, così ci riconosceranno. No, d'estate non lavoriamo. D'estate niente. Non abbiamo un suono estivo. È più invernale, vero? Siamo cold. Sì, in effetti abbiamo studiato la giornata perché è il 5 di maggio, però di maggio. Noi sapevamo che sarebbe venuta la pioggia, sì, tutto il giorno. Poi come moriamo Napoleone, così giusto per... ci va a casa tanto Napoleone. Dai, visti i tempi. In effetti. Bene, allora vi salutiamo con una cosa ancora più sperimentale, non so se c'entra molto, però i suoni sono molto in tema, è forse decisamente più freddo e più sperimentale tutto quello che abbiamo ascoltato adesso. Il ritmo c'è e non c'è, però questo progetto side di Robert Audrey Love, che fa di solito della psichedelia pura, con anche uso di molte di elettroniche, di voci filtrate, è un progetto che si chiama Charlatan, che invece è decisamente più tedesco in tutta la sua sintesi proprio sonora, e però ci mette dentro anche molta sperimentazione sonora stessa. Io direi di salutarci con questo e poi alla prossima. Sì, che ci fa anche una sorta di maniera da commiato, perché non useremo le sigle questa sera. Ciao Teto, grazie. Ciao a buonanotte. Tutti. Ciao.